Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bologna, 14 marzo 1963. Un'iniezione uccide Ombretta Nigrisoli. Ombretta Nigrisoli portava il cognome del marito e lo faceva con orgoglio, anche se le cose ora non erano più come all'inizio. Non era sembrato vero da ragazza di aver trovato un partito così conveniente. L'aveva conosciuto nel secondo dopoguerra suo marito, Carlo Nigrisoli, il medico appartenente alla Crema di Bologna. La sua famiglia era proprietaria della clinica privata più prestigiosa della città. Cos'altro poteva volere della vita una ragazza di ceto basso? Erano trascorsi 13 anni da allora e molte cose erano cambiate. Adesso avevano 3 figli, ma soprattutto non si amavano più. O meglio, lei era delusa e rassegnata. Si era accorta che in società suo marito, il dottor Nigrisoli, era considerato un mediocre, un medico fallito. Nella clinica paterna gli impedivano di esercitare la professione e lo relegavano all'amministrazione. Lui preferiva i rally, la motonautica, le donne. Ne aveva una che gli aveva fatto letteralmente perdere la testa. Bella, bionda, la chiamavano la Kim Novak di Casalecchio. Ombretta sapeva tutto, sapeva e taceva. L'aveva perfino aiutato una notte. Carlo aveva minacciato di uccidersi perché la Kim Novak lo aveva lasciato. E così la moglie a proteggerlo, a telefonare di notte all'altra, a supplicarla di non lasciare suo marito. La prego, signorina, Carlo la ama disperatamente. Si toglierà la vita se non torna con lui. Non privi i miei figli del loro padre. L'umiliazione di implorare l'amante del marito non era niente in confronto al dramma della puntura. Già, la puntura. Quello era il momento peggiore. Quando i bimbi dormivano e lui si avvicinava al letto matrimoniale, non certo in cerca di una carezza. Carlo insisteva, voleva farle quelle iniezioni. Era solo una cura ricostituente, assicurava. Lei, terrorizzata, cercava di tirarsi indietro. Ma lui si intestardiva e lei gli allungava il braccio. Così ogni sera. Il sospetto ce l'aveva Ombretta da quando, in bagno, aveva trovato quella boccettina di curaro. Si era informata e aveva scoperto che, a piccole dosi, il curaro si utilizzava in anestesia, ma con somministrazioni prolungate era letale. E ciò nonostante cedeva ogni volta, tremando di paura. Chiudeva gli occhi e sentiva l'ago bucarle la pelle. Il 14 marzo 1963, Ombretta entrò in coma e morì cianotica, senza poter parlare. Suo marito fu poi condannato, ma nessuno seppe mai il perché lei avesse continuato, per tutte quelle sere, a immolarsi tendendogli il braccio. Marilu Oliva, in libreria con Tu la pagarassa. Elliot Edizioni, 275 pagine, €16,50.